Oggi il Ruanda è al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, e meno male, perché sono 10 anni da quando un terribile massacro in pochi giorni ha distrutto quasi 1 milione di persone. E una situazione che affondava le radici in tanti sbagli degli anni precedenti, e non possiamo dimenticare. Io lo dico per esperienza personale, perché frequento il Ruanda ogni anno dal 1974 e lo frequento in maniera profonda, cioè standoci per dei mesi e contattando tutte le autorità del paese e collaborando con i salesiani che sono presenti come educatori in questo paese dal 1954. E dicevo, le radici sono molto, molto profonde per portare poi a una situazione di tragicità come tutti conoscono. Un paese che era molto povero e che lentamente stava cercando di trovare una sua posizione che desse dignità alle persone con l'esportazione del caffè, con le prime rimesse di dollari, cercando di avere anche una sua dignità in quella terribile situazione anche di contrapposizione di blocchi, e con quella forma di democrazia africana che non è certamente simile a quella che noi chiamiamo democrazia in Occidente, ma che non per questo è meno democrazia. E quando intervengono interessi economici dell'Occidente che inducono i governanti del Ruanda ad aprirsi al cosiddetto multipartitismo, e questo in nome di una malintesa democrazia che non affonda le sue radici nella cultura africana. Il multipartitismo in Ruanda ha voluto dire mettere gruppi gli uni contro gli altri e mettere anche nelle mani delle persone le armi, perché comincia a generarsi la paura che il gruppo che non ha la mia ideologia potrebbe pensare di sopraffare o di distruggere il mio gruppo. E mentre nell'anno 1985 chi vendeva armi a nome dell'Europa, un nome per tutti, Mitterrand figlio, non riuscì a vendere quasi nulla, dal momento dell'avvento del multipartitismo immediatamente il commercio delle armi ha cominciato a fiorire. Arriviamo al 1991, quando sul mercato di Kigali si poteva comprare ogni tipo di arma a prezzi veramente ridotti. A questo punto quelle che erano le paure diventano realtà, i gruppi diventano gli uni nemici degli altri. Si affonda questo discorso all'interno di differenze di nascita, di tribù, di etnia, ma soprattutto direi lo si approfondisce con il fatto che di nuovo gli interessi commerciali dell'Occidente armano una fazione contro l'altra. E il Ruanda è un paese che ha una posizione invidiabile al centro della zona dei Grandi Laghi. È collocato a 1700 metri, 1400, arriva fino a 4500, e quindi è in grado di avere un clima praticamente invidiabile per tutta la durata dell'anno, quindi una base strategica logistica fondamentale per controllare il vicino Congo, di cui non ha le grandi ricchezze, ma che può essere veramente tenuto sotto controllo, o le vie di collegamento dall'Oceano Atlantico all'Oceano praticamente Indiano-Pacifico. Allora, questa nazione fa molta gola alle potenze occidentali e diventa teatro di una guerra che è combattuta da persone locali senza nessun interesse alla guerra stessa. E il massacro chiaramente in quel momento era colorato di tinte di tipo etnico, ma la radice, la fonte, la spinta, le armi vengono da ben altra parte, e una volta ancora i poveri hanno fatto strage di poveri per fare gli interessi di altre potenze che si sono tenute nell'ombra e magari si sono anche scandalizzate dalla violenza con cui i fatti poi si sono verificati. Avvengono alcuni fenomeni, tipo che dalla lingua francese si parla ora la lingua inglese, e questo dice subito quali interessi c'erano prima e quali interessi ci sono oggi. Oggi, quando si arriva in Ruanda, a 10 anni di distanza da questo massacro, si trova una situazione del paese molto cambiata. Il primo impatto è molto, molto nobile. Tutto funziona, il personale addetto alle dogane, all'aeroporto, al controllo lungo le strade, è personale che sa fare bene il suo lavoro e che genera un senso di disciplina e di ordine. Quando poi si entra nell'interno, nelle zone abitate dalla gente semplice, si ritrova però purtroppo la stessa povertà, anzi forse adesso mi è difficile misurarla, anche peggiore di quella che c'era prima. Parlando con chi di dovere, emerge che c'è una classe che si è molto arricchita negli ultimi anni, e appartiene tutta a una sola etnia, e un'altra classe che invece si impoverisce sempre di più, e si impoverisce anche di persone, per cui da fonti ovviamente riservate c'è una valutazione di sparizioni di persone che non sono allineate. E qualcuno osa dire che i numeri delle persone sparite è proporzionale a quello che è stato il massacro del 94. Allora, davanti a queste cose viene molto da pensare, perché se i diritti umani sono indivisibili, nessuna pace si potrà fare su una situazione dove qualcuno ha più diritto di altri o dove vengono trascurati i diritti di persone in modo significativo. Uno dei retaggi della strage del 94 sono le carceri con circa 120.000 prigionieri. E è un problema enorme, 10 anni in prigione senza essere giudicati. Ultimamente, per direi con un gesto molto bello, molto significativo, sono stati organizzati dei tribunali, diciamo delle singole colline, dei singoli paesi, con quelli che potremmo dire dei giudici di pace che stanno cercando di risolvere almeno i casi risolvibili più semplici, soprattutto di persone che all'epoca dei fatti erano o molto anziane o molto giovani. E circa 25.000 di queste persone sono state scarcerate e vengono giudicate man mano da questi tribunali di pace. Un altro retaggio delle stragi del 94 sono gli orfani. È chiaro che, avendo ucciso moltissimi papà e molte mamme, ci sono tantissimi bambini che sono rimasti orfani. E questo pone un problema notevole di educazione, ma anche di dignità umana, che lentamente sta riprendendo una sua posizione accettabile. Noi come salesiani siamo presenti tuttora in questo grande paese e ultimamente ci siamo permessi di festeggiare i 50 anni di presenza. Si tratta per lo più di ambienti aperti a tutte le etnie senza diversità, aperte soprattutto a persone povere, giovani poveri, e con una veramente forte tensione di fare attività che aiutino tutti a ritrovare una forma di comunione, di collaborazione, di rispetto vicendevole. In questi 50 anni una buona parte dei quadri del paese sono usciti da queste scuole di formazione. Ecco, a me pare che questo è il cammino da seguire. Diritti umani per tutti, diritti umani a partire dai più poveri.